Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'altra puntata di Focus Economia in diretta oggi da Pitti, come già annunciavano i nostri GR24. Pitti che oggi apre i battenti dopo una cerimonia molto bella ieri sull'Arno, in cui si è celebrata la centralità di Firenze nel mondo della moda. Ma chiaramente parliamo di soldi, anche tanti soldi, visto che il tessile, abbigliamento, moda resta uno dei quattro assi portanti del Made in Italy a livello internazionale. È l'86esima edizione di Pitti, che si terrà fino al prossimo 20 giugno, attesi 30.000 visitatori, 20.000, anzi alla fine sono quasi 1.100 i marchi presenti, di cui 430 stranieri. Ne parleremo anche perché è l'occasione per celebrare una manifestazione all'interno della manifestazione. Mi riferisco a Firenze Hometown of Fashion, che è un progetto realizzato anche con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico. Ne parlammo l'ultima volta che ci trovavamo a Pitti, quando arrivarono anche dei finanziamenti importanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista simbolico per la parte che riguarda la promozione di Firenze come capitale storica della moda italiana. C'è anche il contributo dell'Italian Trade Agency. Oggi, come già ricordavano i nostri GR24, è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Lo ascolteremo parlare di moda, ma anche e soprattutto parlare di conti pubblici e di rapporto banche imprese. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie di cui ci occuperemo chiaramente riguardano la conferenza stampa che il ministro all'economia Padoan sta tenendo dopo la visita degli ispettori del Fondo Monetario Internazionale, guidati dal capo economista Blanchard. E parleremo anche della vicenda argentina, perché oggi c'è stato un retromarcia parziale della presidente Kirchner, dopo che lo spread argentino ha toccato una quota stratosferica, 885 punti sul dollaro, vicini a un rischio default. Ricorderete la vicenda, l'abbiamo già raccontata ieri. La Kirchner aveva definito un ricatto, uno scandalo vero e proprio, la richiesta di pagamento arrivata dagli Stati Uniti, con la conseguenza di mettersi da solo in un vicolo cieco, perché poi il mercato ha punito pesantemente i titoli di Stato argentini. Praticamente 885 punti, siamo a un rischio vicinissimo al fallimento. Aveva definito un'estorsione la richiesta di pagamento degli hedge fund avallata dalla giustizia americana. Oggi però ha detto l'Argentina ha vocazione a pagare ed è escluso un fallimento del debito già ristrutturato. Deve pagare Buenos Aires 1.300 milioni di dollari ai fondi che avevano investito nelle famose obbligazioni argentine. La borsa, come sempre, per quello che riguarda la giornata, faccio notare che Milano è assolutamente invariata, 0,00, mai vista una roba del genere. Detto ciò, Parigi non fa molto meglio, più 0,40%, Francoforte più 0,35%, il titolo che ne parleremo sta schizzando letteralmente nel Monte dei Paschi, più 10,85% a 2,21 €, il Banco Popolare più 2,60%, Pop Milano più 1,60% come Snam Rete Gas, Estima Electronics più 1,20%, Tenaris più 1% come le generali e CNH Industrial, ma anche Autogrill, Chiva Male, G-Tech meno 2,60%, Iux meno 2,40%, Saipem perde il 2,20% come Finmeccanica e la Popolare Emilia Romagna, 2% lo cede Azimut, l'1% è il calo di Mediolanum, lo 0,70% quello di Intesa San Paolo. Le altre notizie in breve. Resta alto il prezzo del petrolio, ci riferiamo in questo caso al Brent a $113, quello il WTI, quindi il petrolio calcolato e prezzato negli Stati Uniti, resta a 106,6, vicino a $107 al barile, ma il segretario del Tesoro americano Jack Lew ha detto che non c'è motivo di allarme sul mercato del petrolio perché la capacità è sufficiente. E poi c'è la vicenda tutta singolare, perché insomma che un gruppo come Greenpeace si veda quasi sul lastrico, perché un suo dipendente si è messo a giocare, a fare il trader, nonostante quello che è successo in questi anni c'è ancora chi ha voglia di giocare a fare il trader finanziario, ha perso 3 milioni e 800 mila euro. Cosa faceva? Evidentemente era meglio se si fosse occupato di ambiente che di finanza, lo dico in generale, perché si era messo a scommettere contro l'euro e comprava valute estere a un tasso fisso, l'euro ha continuato ad apprezzarsi, da lì il buco, comunicato ufficialmente da Greenpeace, da 3 milioni e 800 mila euro. Spostiamoci all'Europa, perché aumentano i posti di lavoro in Europa, ma questa statistica non include i dati, non sono comparabili di Italia e Francia, quindi penso che se vi fossero anche Italia e Francia sarebbe un po' diversa. Comunque la Germania è il paese, e questa non è una notizia, dove arrivano le maggiori richieste di posti di lavoro. Segue la Gran Bretagna, il Belgio e la Svezia. Ripeto, Italia e Francia hanno dati statistici non comparabili, forse va meglio così. Una buona notizia sull'Italia però arriva dai dati sull'export di aprile, più 2% dopo alcuni mesi di battute di arresto. È tornato a crescere il nostro export, trainato soprattutto dalla componente europea, più 5%, quindi evidentemente qualcosa si muove anche nell'area euro. Germania più 6% quasi rispetto all'aprile di un anno fa, Francia più 1,2%, Spagna più 5,6%, Gran Bretagna più 3%, Stati Uniti più 5%, paesi OPEC, quindi produttori di petrolio, più 1,3%, ferma la Russia più 0,7%, molto bene la Cina più 5% e il Giappone più 7%. Restando l'Italia, oggi c'è una stima della Confesercenti secondo cui a fine 2014 la spesa e i consumi interni dovrebbero tornare positivi anche grazie al bonus fiscale di 80 euro che, sempre secondo la Confesercenti, genererà 3 miliardi e 100 milioni di consumi in più nel 2014 e a regime saranno 5 miliardi e 100 milioni di euro. E a questo proposito, da Pitti questa mattina in visita ufficiale, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha detto che la crisi non è finita ma può essere vinta. Usciamo dalle frontiere del nostro paese e troviamo una fame di Italia e di qualità della vita che noi talvolta sottovalutiamo e che noi talvolta disperdiamo in mille polemiche, in mille discussioni interne. E allora questo è il senso oggi del tentativo che tutti insieme dobbiamo fare di uscire dalla crisi. Provare a investire sul futuro dell'Italia sapendo che le caratteristiche che ci fanno forti sono più grandi delle preoccupazioni che ci attanagliano. Che cosa significa? Significa avere il coraggio di dire qui e adesso che la crisi può essere vinta, perché non è finita, come ovvio che sia, non è finita la crisi, ma la crisi può essere vinta perché tutti gli strumenti sono messi in campo. E sempre Renzi, che chiaramente oggi a Pitti a Firenze giocava in casa, ha detto attenzione per quello che riguarda le banche, lo cito perché poi c'è stata anche una risposta a stretto giro di un paio di banchieri, per quello che riguarda le banche dopo la mossa di Mario Draghi e quindi il tasso negativo su depositi overnight, depositi notturni e soprattutto 400 miliardi di credito alle banche a tassi molto agevolati a patto che le reinvestano sull'economia reale, quindi imprese e famiglie, senza mutui però di mezzo. Dicevo, Matteo Renzi oggi ha detto dopo l'innovazione portata da Mario Draghi sono finiti gli alibi per le banche. Diciamo con forza al sistema bancario italiano che dopo l'investimento e l'innovazione sperimentata dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e dal board della Banca Centrale Europea non ci sono più alibi per dare credito alle imprese. Noi chiediamo con forza agli istituti di credito di intervenire con determinazione, di far girare i denari che vengono dall'Europa e essere in condizioni di dare finalmente un po' di respiro, soprattutto alle piccole e medie imprese che hanno sofferto. Se è vero che non c'è stato credit crunch, è vero che c'è stata una contrazione straordinaria del credito. Noi abbiamo bisogno di un sistema bancario che sia nelle condizioni di fare ciò che la Banca Centrale Europea oggi ha messo in campo. E dicevo, risposta a stretto giro da parte del numero uno di Ubibank, Victor Massià, e anche del direttore generale di Unicredit, Roberto Nicastro. Massià ha detto è la domanda di credito a essere ancora insufficiente, quindi sono le imprese che chiedono poco credito o in maniera insufficiente. E Nicastro ha messo in guardia dal rischio, perché se non si riesce a trovare un modo per ricapitalizzare le imprese sarà difficile uscire dalla crisi. Faccio però notare che l'ABI oggi diffonde i dati sui prestiti bancari. La buona notizia è che il calo si è assestato, ma resta un calo, per cui su questo, che sia colpa delle imprese che non chiedono i soldi o delle banche che non li vogliono dare, il calo è netto, meno 3% rispetto a un anno prima. Il picco negativo fu raggiunto a novembre del 2013 con un meno 4,5% nei prestiti bancari, e tra l'altro i finanziamenti alle famiglie sono scesi appunto del 2,9%. L'ABI fa notare però che i mutui sono in crescita, nei primi 4 mesi dell'anno più 26,5%, e dice c'è qualche barlume di luce, anche se le sofferenze bancarie, quindi i crediti che difficilmente torneranno indietro, o anzi in maniera quasi impossibile, superano i 166 miliardi ad aprile. Prima di arrivare ai temi del Pitti, un'ultima dichiarazione che ha reso oggi il sottosegretario dell'economia Enrico Zanetti ai nostri microfoni, ospite di Effetto Giorno con Simone Spezia. La vicenda è quella dell'IMU Tasi e del caos che ne è generato. Beh, Zanetti ha detto: è un disastro indifendibile, mi sembra palese e chiaro che non vi possa essere alcuna sanzione nei ritardi dei pagamenti dopo il 16 giugno. Facendo leva in via interpretativa sullo statuto del contribuente, che consente la disapplicazione di sanzioni in condizioni di obiettiva incertezza, e per la Tasi obiettivamente ci sono, potremmo dire che non si applicano le sanzioni per chi procede tardivamente al versamento rispetto alla scadenza del 16 giugno, che, come ricordava lei, riguarda quei comuni che avevano già deliberato. A livello un po' più generale, io oggi ho guardato la prima pagina del Sole 24 Ore e c'è letteralmente da impazzire, perché c'è una sorta di schemino con il nuovo calendario di Unico che prevede 4 scadenze diverse a seconda della condizione nella quale si è. Ma ci dica chiaramente, sottosegretario, è accettabile una cosa di questo genere per un contribuente? No, inaccettabile. Sono anni purtroppo che il sistema sta peggiorando invece che migliorando. Quest'anno, da dire, con il binomio Tasi-IMU abbiamo veramente superato la decenza, mi avviso. È chiaro che questo governo sulla semplificazione fiscale ci scommette molto. Diciamo che il risultato del nostro operato sarà quello che accadrà nel 2015, perché è chiaro che noi adesso stiamo lavorando per poi semplificare l'anno prossimo. Lo dice lo stesso sottosegretario, che è inaccettabile quello che è successo. Speriamo che il secondo tentativo vada meglio, perché sul fronte della semplificazione fiscale siamo all'anno zero, forse all'anno meno uno. Comunque siamo qui in diretta, dicevo, da Pitti, da questa edizione. Siamo alle costruzioni di Lorenzi, primo piano, per chi lo volesse sapere, e ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi, da un lato Raffaele Napoleone, che è l'amministratore delegato di Pitti Immagine, dall'altro Gaetano Marzotto, presidente di Pitti Immagine. Applauso spontaneo, no, perché l'avevo chiesto io, per cui non è spontaneo per nulla, va bene. Allora, però, molto diligente il pubblico di Pitti. Napoleone, partiamo da lei, perché insomma nel ruolo di amministratore delegato io ricordavo che questa edizione è un po' particolare, poi arriviamo ai numeri, alle cifre, alla congiuntura anche con Gaetano Marzotto, ma perché si inserisce nel complesso di iniziative Firenze Hometown of Fashion. Allora, per evitare ogni fraintendimento, visto che voi avete ricevuto 2 milioni, voi, insomma, il sistema che gestisce poi anche questi eventi, avete ricevuto 2 milioni di euro, se non ricordo male. Lordi, ho capito adesso. Meno 22%. L'obiettivo qual è? Perché uno può pensare a una grande kermesse fine a se stessa, autoreferenziale, in cui ci sono un po' di fuochi d'artificio. Ieri, devo dire, è bellissima anche l'operazione di illuminazione permanente del Ponte Vecchio a Firenze, uno scandalo forse che non fosse illuminato fino adesso, un'operazione congiunta tra voi e anche il gruppo Unicredit, quindi va riconosciuta la cosa, ma dico, l'obiettivo qual è? È celebrare Pitti in maniera autoreferenziale o portarla ancora più fuori sui mercati che pesano? Prego. Domanda interessante. Ogni tanto mi vengo. Innanzitutto va ricordato che il 60° è del Centro di Firenze per la Moda Italiana, che è l'associazione pubblico-privata proprietaria di Pitti Immagine, che ha ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico i 2 milioni di cui si parlava prima, per un obiettivo molto preciso, che era quello, in occasione del 60° anniversario del centro, di mettere in valore le unicità di questa manifestazione, che è appunto detenuta dal Centro di Scienze della Memoria Italiana, rispetto a quello che è lo scenario internazionale. Per fare un'operazione quindi che fosse di sistema, non fosse un'operazione esclusivamente legata a PT Immagino al centro stesso. Si è lavorato infatti su più livelli, che sono dei livelli di territorio. Tra l'altro la manifestazione di ieri sera era stata sponsorizzata direttamente da Stefano Ricci, presidente del Centro di Scienze Memoria Italiana, e non dal Ministero, così come devo dire anche i fuochi, come l'illuminazione del ponte, era un investimento di un imprenditore privato che ha approfittato, se vogliamo, di questa situazione, e anzi va ringraziato perché ha dato alla città qualche cosa. Quindi è il primo atto, come è stato detto dal Vice Ministro Carlo Calenda, di un'operazione che verrà reiterata in altre città e con altre organizzazioni feristiche a sostegno del sistema produttivo italiano. La gran parte dell'investimento che è stato fatto è, per esempio, proprio a conferma di quanto sto dicendo, in un piano di ospitalità di compratori mai venuti precedentemente o venuti saltuariamente alle manifestazioni, un piano di ospitalità per la stampa. Quindi si è fatto in modo che questa edizione del PT Immagine Uomo fosse più visibile, fosse più trasmessa all'esterno. E questo è importante anche per i mercati a cui facevo riferimento. Per quello che riguarda invece il sistema fieristico, noi la facciamo sempre questa domanda perché delle volte abbiamo la sensazione che si rischino in alcuni casi le sovrapposizioni. Allora, il sistema fieristico invece ha un ruolo molto importante sia nazionale sia anche quando porto poi le aziende fuori. A chi dice che il sistema tessile abbigliamento moda, lo cito in questo modo perché è un sistema industriale dietro il tessile, una filiera molto importante, poi c'è l'abbigliamento in senso lato e poi la moda come punta di diamante anche per i mercati internazionali, però delle volte la sensazione è che il sistema tessile abbigliamento moda sia un po' frammentato, un po' parcellizzato, che abbia diverse teste quantomeno, vuoi per la complessità, vuoi per le diversissime dimensioni dei soggetti che ne fanno parte lato senso. Allora, su questo lei come vede il soggetto che deve tenere, non dico assorbire, ma coordinare, tenere assieme diverse entità, diverse dimensioni e anche diverse esigenze? Allora, ho partecipato all'assemblea di Sistema Moda Italia in cui si è toccato lo stesso argomento a Milano la settimana scorsa in Villa Necchi. La verità è che sono delle identità molto differenti all'interno del sistema del tessile e abbigliamento. Le logiche e le necessità del tessile sono totalmente differenti rispetto alle logiche e alle necessità dell'abbigliamento, così come degli accessori. Ognuno deve giocare la sua partita in maniera competente e coerente, cercando di non invadere il campo degli altri. Il grande problema che c'è da questo punto di vista spesso sta proprio nel fatto che i compiti che istituzionalmente dovrebbero essere coperti da un'istituzione o da un'organizzazione rispetto all'altra non sempre sono effettivamente rispettati. PT Immagine ha la grande fortuna di essere nata a Firenze, essere stata la culla della nascita del mondo italiano dagli anni 50 fino a metà degli anni 70, certo, di essersi rigenerata e di giocare un ruolo di sostegno all'abbigliamento e agli accessori maschili molto preciso, che non va a pestare i piedi di nessun altro. Facciamo effettivamente delle sfilate, ma sono degli eventi moda unici, non siamo mai andati a cercare sfilate da un'altra città per portarle a Firenze solamente per così piacere di organizzare un'iniziativa. Abbiamo una strategia molto precisa di sostegno alla manifattura e all'industria italiana e evidentemente a tutto quello che è il sistema di distribuzione italiano e internazionale. Quindi si tratta di mettere a fuoco bene i propri obiettivi e, una volta messi a fuoco, raggiungerli nei tempi più rapidi possibili con gli investimenti più corretti. Questo è quello che va fatto. Mettere tutto insieme, come ho sentito dire, mettiamoci insieme perché si perdono risorse, non è molto corretto, perché chi fa tessuto e promuove tessuto ha delle altre logiche rispetto a chi fa prodotto finito e va in contatto con la distribuzione internazionale. Ecco, dal suo punto di vista, Napoleone, è più importante che Pitti porti qui, come avete fatto anche utilizzando i fondi che citavamo prima, buyers, stampa, quindi compratori, ma anche media esteri, o che faccia come fanno altre fiere, non in questo settore, o che organizzi un Pitti all'estero, un Pitti in Cina, un Pitti USA, un Pitti Russia? Allora, abbiamo deciso ormai da anni di non spostare il Pitti Immagine Uomo in questo caso, ma gli altri Pitti, da Firenze in altre città, innanzitutto che abbiamo una società che si chiama Mente Moda Italia, che svolge questo ruolo e già si si sposta in Russia, si sposta in Corea, negli Stati Uniti, in Giappone e in altri mercati, perché abbiamo costruito oltre 20 anni fa questo tipo di struttura. Dall'altra parte noi riteniamo che non sia replicabile l'atmosfera, l'unicità, la specialità di Pitti Immagine Uomo in altre città. Siamo stati invitati anche a gratis, come si usa dire, negli Stati Uniti più che in Germania, incontro di questo pomeriggio per alcune nostre manifestazioni, cioè noi vi diamo a disposizione gli spazi di cui voi veniate, ma non abbiamo nessun interesse ad andare, perché quello che dobbiamo fare è portare qui i compratori, perché oltre a venire in questa manifestazione automaticamente poi partecipano, conoscono, condividono le esperienze del sistema produttivo anche locale. Io penso alla Toscana con Prato, tutta la parte degli accessori, la parte della conceria e tutto il resto. Quindi dobbiamo essere più attrattivi. Sull'estero ci sono altri strumenti che già abbiamo in casa o eventualmente andiamo a cercare altrove. Ecco, il settore, dicevamo, la congiuntura e la centralità del settore l'ha ricordata oggi anche il premier Matteo Renzi, appunto intervenuto alla cerimonia di apertura questa mattina qui alla Fortezza d'Abasso. Lasciatemi spendere una parola per dire come il settore che voi rappresentate possa diventare sempre di più centrale nelle strategie della politica. Noi oggi siamo in una condizione in cui per troppo tempo il politico che si avvicinava alla moda, al fashion, alla impresa collegata alle design, allo stile di vita italiano, era considerato come un UFO, un oggetto non ben identificato. Quasi che vi fosse la manifattura seria, quella tosta, quella capace di toccare i problemi concreti, e poi ci fossero i giocattolini, i divertissement, gli strumenti adatti semplicemente per chi non avesse molto tempo da perdere, settori di nicchia. Noi dobbiamo rovesciare radicalmente questa impostazione, che non significa cancellare l'importanza della manifattura tradizionale, ma significa raccontare in modo credibile come la qualità della nostra impresa, piccola, in media impresa in modo particolare, si colleghi a un'idea di città, a un'idea di territorio, a un'idea di sviluppo, e mostri in questa laboriosità, vedo in prima fila il sindaco di Prato, vi faccio il mio migliore augurio di buon lavoro, Matteo Biffoni, in questa laboriosità sta la capacità da parte dell'Italia di raccontare se stessa. Allora, no, devo dire che il premier sta facendo un giro nelle varie Italie dei distretti industriali, è reduce dall'Assemblea Unita di Confindustria Vicenza Verona, poi sarà sabato a Treviso, Venezia, se non ricordo male, e appunto questa mattina a Pitti. Gaetano Marzotto, devo dire che obiettivamente è vero che una volta, adesso non voglio ripercorrere la storia dell'industria italiana, però la manifattura veniva intesa sempre come manifattura pesante. La meccanica, che resta la prima voce di export italiano, non voglio togliere niente a nessuno, ma è chiaro che con lo spostamento dell'asse a livello mondiale e della ricchezza che non si crea più in Europa ma si crea in Asia, in India, in Cina, in Indonesia, in Brasile, in Russia, beh, è chiaro che noi dobbiamo anche cavalcare. Ogni tanto qualcuno dice ci sarà una selezione darwiniana, dimenticando che Darwin non ha mai detto che vince il più forte, ha detto che vince chi si adatta, non il più forte. Il più forte soccombe delle volte, vince nella selezione darwiniana chi è capace di adattarsi al mutamento climatico, anche del clima economico. Allora, che sui mercati che ci interessano, ma anche sulla domanda interna, prego. Abbiamo visto negli ultimi mesi una ripresa in Europa, e questo è stato molto importante per noi, perché è il mercato principale per il Made in Italy, quindi è ripartita la Germania, è ripartita anche tutta il Nord Europa, l'Inghilterra. Ci sono dei paesi che sembravano persi, tipo la Spagna, il Portogallo e la Grecia, che hanno fatto una bella ripresa di consumi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si può ripartire anche dal vecchio continente. È chiaro che l'America ha avuto 3 mesi difficili, perché gennaio, febbraio e marzo sono stati gelati, Canada uguale, però adesso in questi mesi sta ripartendo, l'economia sta riprendendo, i consumi eccetera. Vale anche per le tigri asiatiche, che sono andate benissimo, quindi Sud Corea, che abbiamo ospite a Pitti quest'anno, più Indonesia, più Singapore e Hong Kong. Hong Kong con la Cina fanno il nostro terzo paese, quindi subito dopo la Germania e la Francia supera addirittura i consumi dell'America, quindi è molto importante. La Cina è rimasta ferma per i motivi di corruzione, di anticorruzione, per cui è rimasta ferma, però nel lungo termine la Cina sarà sicuramente uno dei nostri grandi, grandi clienti. Perché questo? Perché i cinesi hanno una grandissima cultura, quindi amano la qualità. Hanno capito che in Italia c'è un lusso accessibile, buono, perché non sono solo multimilionari cinesi, ci sono tanti cinesi di classe bassa o media che adorano il Made in Italy, che adorano quello che portiamo. La vera sfida è come arrivare adesso alla nuova distribuzione. E questo è uno dei punti fondamentali su cui Pitti diventa il ponte per le piccole e medie aziende per arrivare a questi nuovi mercati. È un ponte che ci stiamo giocando in vari modi. Sicuramente uno dei modi che citava il dottor Napoleone è vincente, sia quello di portare i grandi buyer qui. Però ce n'è un altro di modo, che è quello di andare da loro, ma non con EMI, non con le fiere, ma come abbiamo fatto e ricordato, ossia abbiamo fatto una Pitti Selection. Pitti Selection vuol dire un centinaio di marchi qui presenti, sui 1100 marchi, che vengono selezionati ed è tutto il meglio del Made in Italy. Meglio in innovazione, meglio in prodotto, meglio in tessuti, meglio in stili di vita, perché questo è quello che noi possiamo lanciare in maniera vincente. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei concludere con Raffaello Napoleone e con Gaetano Mazzotto su un tema che vedo anche molti ascoltatori sollevano. Da un lato il tema delle dimensioni, non possiamo eludere, poi io non sono un appassionato delle dimensioni, nel senso che non sono, penso che l'anismo sia una cosa, l'essere piccolo un'altra, dipende dove ti collochi nella filiera del valore, l'abbiamo detto più volte, non ha senso dire sei piccolo, un conto essere piccolo, un conto essere nano, può essere piccolo e quindi fisiologicamente corretto con 30 dipendenti, può essere nano con 300 dipendenti, dipende dove sei collocato. E l'altro riguarda però la posizione europea, perché mi arrivano molti messaggi sull'annullamento dei dazi alle importazioni in Pakistan e questo ha creato non pochi problemi, perché abbiamo già altri paesi che usano dazi verso il nostro export in quei territori. L'Europa ha deciso di eliminare i dazi per l'importazione dal Pakistan. Il Pakistan fa tessile di base, ma non solo, fa un tessile anche, diciamo, medio, per cui la concorrenza arriva diretta. minuti, di nuovo in diretta da Pitti qui a Firenze, alla Fortezza da Basso. Dunque, prima dell'interruzione dicevo con Gaetano Mazzotto, che è presidente di Pitti, due temi che stanno emergendo dagli sms al 349-238-6666 e poi alla pagina di Focus Economia su Facebook. Uno, quello dei dazi. L'Europa ha deciso di levare i dazi alle importazioni pakistane. E qui c'è il tema sempre di un'Europa divisa in due anche nel tessile. I paesi del nord, che dalle grandi catene, H&M, ma non solo, usano le produzioni fatte fuori dall'Europa, non hanno una cultura del tessile, non hanno neanche una grande produzione di qualità del tessile, però importano da fuori e fanno pressione su questo. E poi c'è tutto il sud Europa, a partire dall'Italia, che invece ha anche una storia, una produzione importante nel tessile, che da solo vale 550.000 occupati. Altro aspetto è sulle dimensioni. Il tema vero sono le dimensioni o, diciamo, il controllo della filiera? Perché uno può essere anche grande, ma se poi il tuo distributore è cinese, poni, tu puoi essere grande quanto vuoi, ma non controlli poi quello che lui distribuisce, allora forse è più il tema del controllo della filiera che delle singole dimensioni di ogni soggetto in questa filiera. Mazzotto. Allora, punto primo è cosa sta succedendo sul mercato. Quindi il consumatore europeo vuole comprare buoni prodotti a prezzi relativamente competitivi. E su questo non ci piove. E su questo ha ragione la distribuzione internazionale, soprattutto quella nordica, per dire possiamo e vogliamo darvi dei buoni prodotti a dei bassi prezzi, soprattutto nelle fasce basse di prodotto. Dove invece sta diventando straordinariamente una grande opportunità da un rischio per il Made in Italy è questa enorme massa di 1 miliardo di nuovi consumatori, soprattutto nel Far East, che vuole prodotti di qualità e li vuole nel modo giusto nel tempo giusto, e quindi stanno ritornando le produzioni in Italia. Perché? Perché il consumatore è sempre più incerto, il punto vendita non fa scorte, l'industriale non fa scorte, e quindi ci vuole la filiera che risponde in tempo rapido, in quick response, e questo dà una grande opportunità a tutta la filiera italiana. Vediamo che stanno riprendendo a produrre filati, tessuti, ma anche abbigliamento, in un mercato che abbiamo visto nei consumi europei non è stato straordinario negli anni passati, adesso sta riprendendo. Quindi sicuramente c'è una grande opportunità per la qualità, e secondo me, se in Europa si tolgono le tariffe in certi paesi tipo il Pakistan, bisogna avere reciprocità. Cioè, noi abbiamo delle tariffe enormi nei confronti dell'India, il 50%, nei confronti ancora di tutti quei paesi lì, fra cui il Pakistan, e non possiamo abolirle, quindi ci vorrebbe reciprocità. E poi ci vuole trasparenza, ossia se è made in Italy bisogna spiegare al consumatore che è made in Italy. È sbagliato quel made in Europe o quelle confusioni che si creano, e lì purtroppo i paesi del nord insistono nel non dare messaggi chiari ai consumatori, e questo è sbagliato. È una sul cosa... tema delle dimensioni, è più importante la dimensione o il controllo della filiera? Allora, dipende dal segmento in cui ti trovi. Se sei nel segmento alto è molto più importante il controllo della filiera, risposta rapida, la qualità, la produzione fatta bene, eccetera. Se sei nel segmento medio o medio-basso ancora di più, il controllo della filiera è importantissimo, perché vuol dire conoscere il cliente finale, il consumatore. E questa è la vera sfida per il Made in Italy, perché molti altri gruppi spagnoli, francesi e anche americani hanno i negozi in mano. Mentre noi italiani è un passo che solo i grandi gruppi hanno fatto, quelli piccoli, medi, non li hanno fatto, e questa è la grande opportunità che gli daremo con Pittimani. Chiudendo sui mercati esteri, vorrei chiedere a Raffaele Napoleone una cosa. Ok, voi avete detto che non c'è sovrapposizione tra di voi, vabbè, tra Pitti, Sistema d'Italia, Camera della Moda e Milano Moda e quant'altro, però all'estero noi un po' di confusione in questi anni l'abbiamo notata. Se prendiamo i soggetti che si chiamano ICE, c'è un importante tentativo di riformare l'ICE, ne abbiamo parlato anche con il viceministro Calenda più volte, però insomma, tra ICE, Camere di Commercio, singole iniziative, singole case, singoli marchi, insomma non è che tutto abbia funzionato in maniera così lineare. Avete molta ragione su questo, sono discussioni che si fanno da anni, più volte si è pensato di razionalizzare il sistema di promozione all'estero, per certo sono troppi gli enti che si stanno occupando, penso anche alle regioni, nonché alle camere di commercio, di export, e lo fanno spesso e volentieri utilizzando male le risorse. Occorre un coordinamento intelligente, il che vuol dire utilizziamo le risorse che ci sono attualmente, probabilmente bisogna fare in modo che ci sia una regia unica, e quando parlo di regia unica penso soprattutto a quella di una regia che utilizzi i fondi pubblici in maniera più coordinata, coinvolgendo le imprese attraverso il loro sistema associativo. Troppo spesso certe iniziative sono state avviate all'estero sulla spinta di piccoli interessi, anche di territorio del tutto leciti, che però non hanno mai portato a nulla. C'è un progetto che era stato già affrontato e proposto anni fa di mettere il tutto al di sotto di un unico ombrello, poteva essere per esempio il Ministero degli Affari Esteri, dove tra l'altro oltre alla promozione aziendale ci possa essere la promozione turistica, tutto quello che in qualche modo ci consente di essere più forti dall'estero. Credo che questo sarebbe una grande iniziativa, e soprattutto ci farebbe risparmiare delle risorse da poter mettere sulla promozione estera. Grazie, in bocca al lupo per i prossimi giorni di lavoro. Grazie Gaetano Marzotto, presidente del PIT, grazie al ministro delegato Raffaello Napoleone, in bocca al lupo a tutto il tessile italiano. Ripeto, 550.000 occupati sono la cosa a cui noi guardiamo, e quindi portate i nostri auguri a tutto il mondo del tessile. Adesso andiamo sul traffico, poi la borsa con i due casi di oggi. In realtà la borsa è piatta, ma ci sono due casi molto interessanti: Monte dei Paschi più 15,80% e la Cassa del Risparmio di Genova più 10%. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Strade in diretta. Sono trafficate tutte le autostrade a ridosso dalle grandi città, in particolare al momento i maggiori disagi a Roma, dove ci sono lunghe code sul raccordo anulare per allagamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Ciampino, code anche in carreggiata interna tra la via Cassia e la via Salaria. Altre code poi sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni. Sulla Pontina code in entrambi i sensi di marcia per un veicolo che si è ribaltato in prossimità di via Diecima Castel Porziano. Poi per lavori ci sono code sulla 4 Venezia Trieste tra Monfalcone e Re di Puglia verso Venezia, sulla 13 Bologna Padova in direzione Bologna tra Villa Marzana e Docchiobello e sulla 14 Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione Bari. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. minuti. Allora, la borsa, iniziamo il commento. Giornata piatta su tutti gli indici, o meglio Milano in primis, 0,09% non è cosa di rialzo, Parigi più 0,60, Francoforte più 0,30%, con un euro a quota 1,3545. Ancora per quello che riguarda gli indici, devo dire che l'America in questo momento è praticamente quasi invariata, meno 0,02% l'S&P 100. Per quello che riguarda i titoli, le novità riguardano due bancari, Monte dei Paschi più 15,80% e Cassa di Fiamma di Genova più 10%. Ciao Condi, la Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Non abbiamo ancora il collegamento con Cioconi, vado avanti intanto con gli altri titoli. Jeffran più 7% e ancora c'è, benissimo, purtroppo da Milano non abbiamo la stessa prontezza. Buonasera Ceo. Buonasera. Ecco, sento un po' di ritorno in cuffia. Dicevo, Cassa di Risparmio di Genova e Monte dei Paschi, che è successo? Due titoli sotto aumento di capitale, sono un po' tutti e due sull'ottovolante in questi giorni. Oggi il Monte dei Paschi registra più 15,8%, sicuramente una performance importante in attesa della scadenza di venerdì, quando finirà il termine per la negoziazione dei diritti dell'aumento di capitale. C'è grande attesa per l'eventuale, diciamo, ingresso di nuovi soci all'interno della compagine nazionale della banca sinese. Per quanto riguarda invece Carige c'è un più 10%, qui c'è una notizia forte che il fatto che la banca svizzera UBS sia salita al 4% del capitale acquisito durante il recente collocamento da parte della fondazione, e ovviamente la presenza di un investitore così importante deve aver stuzzicato anche qualcuno sulla partecipazione all'aumento. Sì, e quindi c'è da un lato l'ingresso vero e certo in Cassa di Fiamma di Genova, dall'altro quello presunto, diciamo, sul Monte dei Paschi di Siena. Bene, abbiamo visto anche altri titoli, tra i migliori e peggiori in assoluto vorrei citare, e tra i titoli di maggiore capitalizzazione, anche il Banco Popolare più 3,14%, qui c'è l'ipotesi di Bad Bank. Sì, c'è questa Bad Bank che diciamo è stata già sistemata da tempo, ha asset per circa 3 miliardi di euro, c'è un po' di tutto, immobili, crediti, chirografari, ipotecari, sostanzialmente però ci sono tante sofferenze. E ieri scadeva il termine per la presentazione delle offerte da parte di operatori specializzati che poi prendono questi asset e se li recuperano, e ci sarebbero delle offerte da parte di Blackstone e da parte di Prelios e Fortress, quindi insomma si prospetta per il Banco Popolare un ingresso di liquidità. Ancora Fiat, devo dire la verità, oggi abbastanza altalenante, c'è un dato sulle immatricolazioni in calo in tutta Europa che non abbiamo ricordato, forse vale la pena anche riprenderlo perché riguarda le immatricolazioni di carattere europeo, e Fiat tutto sommato oggi ha tenuto, nonostante il dato, la quota in Europa scende FCA scende del 2,9% al 6,3% del totale nei 5 mesi di inizio anno. È scesa al 6,1% la quota Fiat. Nonostante questo, il titolo ha tenuto, poi ripeto, alti e bassi oggi in borsa, mentre bene si è mossa Snam più 1,86%, bene si è mossa anche la Pop Milano più 2% e CNH più 1,20%. Chi non ha tenuto invece G-Tech meno 2,60% e anche Saipem meno 2,30% e Telecom meno 1,1%. Di questi titoli parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. 8 e 9 minuti, di nuovo in diretta dal PIT della Fortezza Basso a Firenze con Focus Economia e con voi Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo concludendo l'appuntamento di borsa parlando in questo caso dei titoli che oggi hanno perso. GTEC meno 2,6, dicevamo Saipem meno 2,30%, ma c'è anche Telecom. Allora, GTEC, perché ci sono delle indiscrezioni, e Telecom Italia. Ciao Condina. Allora, per quanto riguarda GTEC cede il 2,6%, la società ha confermato discussioni preliminari in vista della possibile acquisizione della International Game Technology, che è una società americana che di fatto fa le macchinette che ci sono nei casinò. Ecco, secondo il mercato c'è un po' di perplessità per l'entità dell'acquisizione, per i potenziali rischi, non si vedono grandi opportunità in questo settore e diciamo, gli analisti che segue il mercato sostiene che diciamo, le risorse della società potrebbero essere forse impiegate in altre acquisizioni più redditizie, di qui le vendite sul mercato. Per quanto riguarda Telecom invece il tema è quello della scissione dalla holding Telco che fa capo a Telecom, chiesta dai principali tre investitori, Intesa San Paolo, Mediobanca e Generali. Questi tre investitori riceveranno in cambio direttamente i titoli di Telecom per un complessivo 7-6% e l'attesa del mercato è che poi questi titoli vengano venduti e quindi è normale che anche il titolo in borsa vada male, perché ci si attendono a breve delle cessioni di pacchetti importanti. Altri titoli da segnalare, dicevamo anche IUX meno 2%, Azimut meno 2,14%, Finmeccanica meno 2,26%, Pop Emilia Romagna meno 2%, visto che siamo a Pitti citiamo anche TOZ meno 0,70% oggi, e invece World Duty Free Pad 0,40%, Mediaset pure, Eni lo 0,50%. In assoluto i migliori li abbiamo già detti, Monte dei Paschi e Cassa del Risparmio di Genova, oltre che al Banco Popolare. I peggiori, Seat pagine gialle, le ordinarie meno 5,90%, Cementir Holding meno 4,70%, Tiscali meno 4,5%, Mondo TV meno 4,30% e poi Datalogic meno 4%. Grazie a Ciò Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi adesso dal mercato borsistico italiano ci spostiamo a quello delle obbligazioni e quindi dei debiti, ma in questo caso argentini. L'Argentina ha dimostrato una più che evidente volontà di negoziare. Tuttavia, credo che sia opportuno distinguere tra negoziati, tra parti ed estorsione. Penso siano cose molto differenti. Ogni governante, ogni paese, ogni dirigente nell'economia come nella politica deve essere pronto e disponibile a negoziare. Quello che invece non può fare, quantomeno il presidente di uno Stato sovrano, è sottomettere il proprio paese ad una estorsione. Nel rivolgermi non solo ai milioni di argentini che mi stanno ascoltando, ma anche al 92% dei creditori che hanno creduto nell'Argentina, voglio garantire che l'Argentina rispetterà le sue obbligazioni. L'Argentina non farà default sul debito già ristrutturato. Non va a defaultare su deuda ristrutturata. E questo è il passaggio principale del presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner nel messaggio che ha rilasciato la televisione argentina. L'avete sentito, ha detto l'Argentina, un conto è negoziare o rinegoziare i debiti, altra cosa è l'estorsione. L'Argentina non pagherà il miliardo e 300 milioni di dollari che secondo la decisione della Corte Suprema Americana Buenos Aires deve invece versare entro il 30 giugno agli hedge funds, quindi fondi altamente speculativi, che non hanno aderito alla ristrutturazione dei titoli di Stato, alla nuova offerta argentina, che ha causato, ricorderete, il fallimento dell'Argentina, perdite tra il 70 e il 90% degli investitori coinvolti. La reazione del mercato è stata netta, perché lo spread argentino è arrivato a 885 punti con un rischio default, e tra l'altro in base alla regola del pari passo il pagamento agli hedge funds potrebbe innescare infatti pagamenti per altri 15 miliardi ad altri possessori di obbligazioni argentine, praticamente sarebbe la metà delle riserve in dollari dell'intero paese. Però a me la situazione in questo momento, dopo la presa di posizione della Kirchner, sembra da vicolo cieco. Chiedo a Roberto Darin, per anni corrispondente sulle 24 ore proprio dall'Argentina, che segue i temi del Sud America per il quotidiano. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Come posso uscirne la Kirchner, che dopo aver definito la sentenza, una sentenza che di fatto legittima la, sostanzialmente un'estorsione vera e propria, adesso o fa marcia indietro o accetta una tempesta sui mercati? Ma la cosa più probabile è che si avvii un negoziato, come è nella tradizione argentina e come hanno dimostrato di saper fare. Certo è una vicenda abbastanza sorprendente, perché di cui conosciamo alcuni tasselli, ma non tutti, perché alcune settimane fa, non so se tu ricordi, però vale la pena appunto ripassarlo un attimo. Il presidente Obama si è schierato a favore dell'Argentina su questa vicenda, quindi proprio sugli hedge fund, e quindi questo dimostra un po', va, anche una certa autonomia della Corte Suprema americana, non ne dubitiamo. Però questo finirebbe per coerenza, diciamo, se andassimo fino in fondo e l'Argentina dovesse pagare la metà delle riserve, come tu hai giustamente detto, per far fronte a questi debiti. La morale che se ne trae è che verrebbe penalizzato il paese che ha portato a termine la ristrutturazione del suo debito. Ecco, questo è il paradosso. Cioè, alla fine non dimentichiamolo che tutti coloro che hanno sottoscritto le nuove obbligazioni argentine stanno portando a casa tra il 60% e l'80%. Questo non è accaduto né con Parmalat né con Cirio, e possiamo andare avanti, che sono state perdite secche. Quindi io, attenzione, non voglio qui convalidare una linea che è quella di chi vuole assolvere l'Argentina, che sicuramente ha delle colpe, però dobbiamo tenere presenti tutte le tessere del mosaico che raffigurano questa vicenda. Per cui tu dici, attenzione, perché da un lato il paradosso rischia di essere che se obbligata a pagare, e come spiegavamo prima, se iniziasse a pagare l'Argentina potrebbe a cascata dover pagare altri 15 miliardi e altri possessori di bond argentini in giro per il mondo, però se obbligata a pagare verrebbe penalizzato il paese che in realtà il debito l'ha ristrutturato, cioè ha chiaramente fatto saltare con un default, con un fallimento, il vecchio debito, e poi la ristrutturare vuol dire che ne ritorni una parte, tra il 60% e il 70%. Questo perché nel frattempo l'Argentina è riuscita anche a riprendersi dal punto di vista economico. Ricordo che il fallimento del 2001 era il settimo in realtà fallimento nella storia argentina, e coinvolse titoli per 100 miliardi di dollari, di cui 14 miliardi in mano a 450 mila. Esatto. Risparmiatori italiani convinti in alcuni casi dalle banche italiane a non sottoscrivere l'accordo, perché questa è una vicenda di cui già parlammo. Dopo le ristrutturazioni valgono circa un terzo del loro valore, però le scadenze si sono allungate anche al 2038. E dicevo però, Roberto, da questo punto di vista l'elemento finanziario economico è chiaro. Tra l'altro la sentenza americana pone anche un precedente pericoloso per tutti i casi di ristrutturazione di debiti sovrani. A me sembra che però la Kirchner abbia fatto anche una mossa politica, perché il paese dopo appunto una ripresa economica sta attraversando un periodo difficile. L'inflazione è sopra il 35%, le riserve valutarie un po' si assottigliano e insomma nonostante la svalutazione l'economia non è che stia marciando a pieno regime. Roberto, quello che tu dici è giustissimo, è esattamente come tu hai detto. L'inflazione, per la verità, continua a questi ritmi molto sostenuti già da almeno dal 2007, quindi da molti anni, però nel frattempo il tasso di crescita del PIL, la crescita economica del paese si è assottigliata, ha rallentato la propria corsa, quindi quello che tu dici è vero, il paese adesso vive una fase congiunturale meno brillante, questo è nelle cose, ci sono dei cicli economici, naturalmente era ipotizzabile che non ci fosse una crescita infinita, però c'è un altro fatto che forse vale la pena di ricordare e che può essere utile anche un'informazione importante anche a vantaggio dei nostri ascoltatori, è che se si riapre poi tutta la vicenda anche per i 50.000 che non hanno sottoscritto fino ad ora, erano 450.000 i risparmiatori italiani, 400.000 hanno accettato lo swap, il concambio, quindi hanno accettato di entrare in possesso di nuove obbligazioni che di cui stanno staccando degli interessi. Se ora questi 50.000 supportati dalla task force argentina dovessero stravincere, diciamo, e quindi ottenere più di quanto hanno ottenuto i 400.000, i 400.000 potrebbero mandare a monte tutto, perché l'accordo con i 400.000 che hanno già sottoscritto era che chi rimaneva fuori non avrebbe potuto avere condizioni uguali o migliori. Questo vuol dire che se è solo di un dollaro su migliore, tutti i 400.000 possono dire sì, allora mandiamo tutto a monte. E questo, come dire, su un punto ha ragione senz'altro la presidenta Kirchner nell'intervento di ieri. Cioè, il paradosso è che si andrebbe a una situazione davvero di default a quel punto e che si riversa poi sui mercati internazionali, non solo sull'Argentina, con delle conseguenze imprevedibili in un momento in cui obiettivamente nessuno ne ha bisogno. Sottolineerei, adesso vorrei che tu mi confortassi in questa lettura, mi piacerà sentire che ne pensi, che proprio ieri Papa Francesco è intervenuto dicendo l'importante è che l'etica ritrovi il suo spazio nella finanza e che i mercati si pongano al servizio degli interessi dei popoli e del bene comune dell'umanità. Come dire, l'Argentina in questo momento ha anche un supporto di potere che in altri momenti non ha avuto. Sì, adesso non so se il Papa, non faccio l'esegeta di Papa Francesco, non penso che ne abbia bisogno, non so se si riferisse all'Argentina o in generale al ruolo della finanza. Io trovo assolutamente condivisibile quanto ha detto della finanza, non fine a se stessa, ma come una volta si diceva l'olio del motore, poi il motore si è ingrippato per troppo olio. Esatto. Ma diciamo la capacità della finanza di agevolare l'economia, non di essere fine a se stessa. Detto questo, a me sembra molto chiaro che in realtà un fallimento dell'Argentina non convenga a nessuno, perché perderebbero i 400.000, ma anche gli altri 50.000. Si cercherà un'uscita, non ho ancora capito bene quale, nei prossimi giorni vedremo se vi sarà un tentativo anche di rinegoziare, però c'è una sentenza americana e in America le sentenze si rispettano, per cui la situazione è obiettivamente abbastanza congelata. Grazie comunque a Roberto Darin del Sole 24 Ore. Dopo il traffico, chiedo scusa per il ritardo, le prime agenzie, le prime dichiarazioni anche del ministro Padoan dopo la conclusione della visita annuale della delegazione del Fondo Monetario Internazionale, che ha spulciato, diciamo così, i nostri conti in previsione anche del 2015. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Ultima parte di Focus Economia in diretta dal Pitti qui a Firenze. Allora, si è conclusa oggi la consueta, diciamo, visita annuale degli ispettori, insomma dei rappresentanti della delegazione del Fondo Monetario Internazionale. C'era anche il capo economista, comunque vice direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Asim Hussain, il capo divisione per Italia Kenneth Kang. Hanno avuto poi l'incontro con il ministro dell'economia Padoan, con il direttore generale Vincenzo Ravia e con il rappresentante italiano presso il Fondo Monetario che è Andrea Montanino. Ha detto il Fondo Monetario che la ripresa italiana resta fragile, occorrono interventi rapidi, occorre anche un riequilibrio del bilancio per la ripresa e quindi diminuire la pressione fiscale e aumentare la spesa produttiva. Il programma di Renzi è ambizioso, bene comunque la semplificazione fiscale, dice il Fondo Monetario Internazionale, il contratto tutele crescenti aumenterà l'equità, ridurre il debito ma non far deragliare la ripresa. E adesso è arrivato anche il commento del ministro dell'economia Padoan, lo ascoltiamo praticamente in diretta con la nostra Alessandra Schepisi che sta seguendo la conferenza stampa. Alessandra, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. La conferenza stampa si è appena conclusa e il ministro Padoan ha parlato di voti non pieni ma buoni, però è apparso piuttosto soddisfatto perché c'è un riconoscimento di quello che il governo Renzi sta portando avanti, appunto come dicevi anche tu, riforme ambiziose, si parla della semplificazione del fisco, la riforma del mercato del lavoro, il sistema giudiziario, il settore pubblico, c'è come dire anche un po' un rapporto a luci e ombre, si parla di una ripresa dell'Italia che rimane fragile, di una disoccupazione, scrive il Fondo Monetario, a livelli anche inaccettabili, ma appunto c'è fiducia, c'è una sostanziale promozione di quello che sta portando avanti l'esecutivo di Matteo Renzi. Per il Fondo Monetario è comunque importante che si appunto si persegua un riequilibrio di bilancio per ridurre le aliquote fiscali e aumentare la spesa produttiva. A questo punto sentirei proprio la voce del ministro Padoan. C'è convergenza molto ampia sul ruolo fondamentale che le riforme strutturali avviate e in corso di implementazione del governo hanno nel riportare la crescita su un sentiero più robusto e sostenibile e quindi nel porre le condizioni per una ripresa dell'occupazione. C'è una valutazione che condividiamo sulla stato del sistema bancario che ovviamente ha dovuto sopportare le conseguenze di una recessione prolungata, ma nel quale si intravedono segni importanti di ripresa che andranno rafforzandosi in futuro, e nella stance di politica fiscale ovviamente condividiamo con il Fondo la raccomandazione di continuare nel consolidamento fiscale e di favorire per quanto possibile la discesa del debito rispetto al PIL, cosa di cui siamo ben coscienti. E comunque, come tu raccontavi Alessandra Schepisi, insomma il giudizio più importante, il titolo è quello che ha dato Padoan, ossia dal Fondo Monetario abbiamo avuto voti non pieni ma buoni, quindi grande riconoscimento e incoraggiamento, voti non pieni ma buoni, un'operazione anche e di onestà. Grazie a Alessandra Schepisi in collegamento con noi appunto dopo la conferenza stampa del ministro Padoan. Il Focus Economia sta terminando, ci sono alcuni ascoltatori che mi chiedono insistentemente di Alitalia. Allora, non ci sono notizie ufficiali su Alitalia, immagino che il riferimento sia tutto alle indiscrezioni che Etihad, quindi Abu Dhabi, avrebbe imposto, chiesto un ulteriore aumento di capitale da 200 milioni di euro dopo i conti diffusi dal Consiglio di Amministrazione dello scorso venerdì, con un bilancio che ha un rosso di oltre mezzo miliardo di euro, 562 milioni. Ripeto, queste sono indiscrezioni di stampa, non è arrivata alcuna conferma, ne parleremo eventualmente domani. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.